viaggio con Easy Riders. Tranquilli fratelli, non si tratta di una nuova sigla, si tratta di una sigla occasionale. L'occasione la conoscete, mi sembra che la conosciate bene, visto che non faccio in tempo a pensare di iniziare il programma e già sono pieno di messaggi che mi travolgono e la cosa non può che rendermi assolutamente felice. Voglio ringraziare anche l'amico Filippo che mi onora della sua presenza questa sera, non so se verrà in onda, comunque è qui con me e mi supporta con la sua amicizia e soprattutto con un regalo meraviglioso. Ma io voglio ringraziare tutti voi. Tra poco darò anche in diretta come al solito i numeri per potermi contattare. Ovviamente la sigla occasionale è stata Thick as a Brick dei Jethro Tull, un frammento da questa lunga suite del 1972, anche perché la puntata di oggi sarà caratterizzata come al solito dai dischi che mi piacciono, quindi niente di nuovo anche stasera. Easy Rider parte ufficialmente, per chi non lo sapesse, Mox Cristadoro ai microfoni, la luce è quella giusta, ormai da lunedì lo sappiamo tutti, siamo in onda nella fascia oraria più consona alla musica di Easy Rider. Io cercherò oggi di leggere i vostri nomi sicuramente, perché come al solito mi riempite con il vostro affetto, ma vorrò dare il più spazio possibile proprio alla musica in questa giornata speciale. 7 maggio 2008 è presumibilmente l'ultimo compleanno che celebrerò personalmente in onda, quantomeno sulle frequenze di Rock FM, motivo per cui insomma oggi è una giornata veramente speciale. Allora io aprirei così con una doppietta di artisti, partendo con i Jethro Tull. Non posso esimermi poi dal programmare anche quelli che sono altri tra i miei gruppi e tra i miei artisti preferiti. Ovviamente la serata odierna pullulerà di questi suoni. Allora partiamo così, 75/76 tra registrazione e pubblicazione, una doppietta di artisti che vi lascio volentieri indovinare. Hier spricht die Stimme der Energie. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Ich liefere Ihnen Licht und Kraft. Und ermögliche es ihnen, Sprache, Musik und Bild durch den Äther auszusenden und zu empfangen. Ich bin ihr Diener und ihr Herr zugleich. Deshalb hütet mich gut, mich, den Genius der Energie. Nevermore recita il finale di questo pezzo grandioso, The Raven, Alan Parsons Project, esattamente come vi avevo preannunciato, 1975 la fase di realizzazione, 76 l'anno di pubblicazione. Per entrambi i dischi, Radioactivity dei tedeschi Kraftwerk e dai Teutonici siamo passati agli inglesi, Alan Parsons Project con Tales of Mystery and Imagination, un altro classico, insomma sarà un po' anche un best of di Easy Rider, le cose forse più prevedibili che potreste ascoltare durante le mie trasmissioni. Ragazzi, io devo dire che non ce la posso fare però se fate così, perché ma non è che non ce la posso fare solo dal punto di vista emotivo, e voi conoscete bene la mia sensibilità, ma proprio dal punto di vista numerico, cioè non vi sto dietro, siete veramente in tanti e potrei sparare dei nomi a caso, ma mi dispiacerebbe ometterne. Tra l'altro proprio ieri mi sono riletto, io ho l'abitudine di ristampare, scusate, questo è un termine tecnico discografico, di stamparmi a fine programma tutto quello che è l'elenco, cioè tutti i vostri messaggi, e poi magari se li rispulcio così al volo. Ieri ho notato che un amico mi ha scritto dalla città di New York e non l'ho nemmeno menzionato, quindi una persona in ascolto con un 6 ore di fuso orario è sicuramente da menzionare. Ecco, non è cattiveria o predestinazione, le parole, insomma l'emozione tradisce, ma alle volte è disattenzione, anche perché ripeto la mole di messaggi è veramente altissima, tra l'altro che arrivano già da questo pomeriggio, a parte quelli arrivati ai miei colleghi che mi hanno inoltrato e tutto, ma poi aprendo solo la casella di posta elettronica mox@radiorockfm.com ce ne sono veramente tantissimi. Io vi ringrazio così in maniera collettiva, vi abbraccio circolarmente tutti. Vi prego, continuate a mandarne perché mi fanno sicuramente piacere. Esattamente come quando un po' di giorni fa sono stati mandati al maestro Fricantoni, insomma, e poi sono stati sapientemente raccolti dal collega Ariele e inoltrati all'interessato. Ecco. Quindi sappiate che la cosa mi fa molto piacere. Allora, vi ho promesso spazio alla musica il più possibile, un altro classico di Easy Rider è un gruppo per l'appunto di New York, quindi i Blue Oyster Cult, che oggi ho rispolverato con il loro primo album 1972, un pezzo che so per certo piace moltissimo anche al mio amico e collega della redazione Filippo, si intitola She's as Beautiful as a Foot. Il titolo non è granché, non promette molto, ma vi garantisco che l'atmosfera del pezzo è veramente degna di questo programma. She's as beautiful as a foot, una traduzione potrebbe essere: lei è così bella come un piede, e insomma sicuramente anche il piede ha il suo fascino. Poi c'è addirittura tutta una scuola di feticismo intorno a questa parte del corpo umano, quindi non ho letto il testo, però probabilmente ci saranno dei riferimenti a questa cosa. Blue Oyster Cult 1972, un esempio di come anche una hard rock band possa essere sapientemente velata di psichedelia, visto che appunto gli anni da cui provenivano con i loro ascolti e con i loro primi passi mossi insieme agli strumenti erano veramente intrisi di queste atmosfere. Allora, nel frattempo continuano ad arrivare messaggi da tutte le parti del mondo, mi piacerebbe dire, insomma, da tutti i luoghi in cui la frequenza di Rock FM riesce a raggiungervi. Sono felice di essere con voi. Tra l'altro riscopro anche persone che non sentivo da tempo, insomma, anche da luoghi in cui non c'è la frequenza di Rock FM, come Biella, insomma. Poi è chiaro che le città come Ravenna ultimamente, una grande esplosione, un grande calore, ma Genova, Firenze, Pisa, Livorno e ovviamente Milano, Forlì, insomma tantissime le città, e mi limito a menzionare i luoghi proprio perché non c'è il tempo fisico di fare tutti i vostri nomi. Allora, un pezzo è già pronto nel lettore CD, in questo caso è un brano recente, siamo nel 1986, quindi negli anni 80, che per me è storia sicuramente recente. Si chiamano Slayer, e il loro capolavoro è sicuramente questo album dell'86, Rain in Blood, dal quale vi faccio ascoltare Jesus Saves. Giusta furia, la doverosa furia che ogni tanto ci vuole nella nostra vita, e che gli Slayer hanno apportato in abbondanza, hanno apportato copiosa dall'alto delle loro chitarre e soprattutto delle loro ritmiche strepitose, condotte da Dave Lombardo, ovviamente, che ricordo sempre con immenso piacere, come tutti i fans di questo strumento. Ecco, ieri vi dicevo che sapevo a memoria una partitura di un brano dei Mercyful Fate, quindi condotta da Kim Raz, e direi che anche questo album degli Slayer, poi ecco, sull'esecuzione ci sarebbe da ridire, però diciamo che a livello di partiture conosco a memoria anche tutto questo disco. Non potrei sostituire certo Dave Lombardo, ma neanche Bostaff negli Slayer, per motivi di capacità tecnica. Quantomeno avrei bisogno di parecchio tempo per allenarmi e raggiungere i livelli di questi ragazzi eccelsi. Non dimentichiamo che sono americani e gli americani hanno questa marcia in più proprio per il fatto che sono delle teste dure, sono dei capoccioni, e quando fanno una cosa si impuntano, fanno sempre e solo esclusivamente quella fino a che non diventano veramente bravi ed efficaci, al contrario di noi italiani che invece facciamo tante cose magari male, però ci impegniamo a fare tante cose. Va bene, allora Slayer, Jesus Saves, questo era Raining Blood. Nel frattempo gli auguri e i saluti si stanno moltiplicando sotto i miei occhi, e la cosa, vi ripeto, mi rende molto molto felice, quindi festeggiare insieme a voi questo mio 39esimo anno di vita è veramente una ottima ragione. A questo punto, parlando di cinema, io non voglio parlarvi di uno dei miei film preferiti, perché non è uno dei miei film preferiti, per quanto non mi dispiaccia, ma sicuramente è una delle mie colonne sonore preferite, proprio una delle cinque più belle, non voglio dire la migliore perché diventa un po' difficile, ma sicuramente veramente una delle cinque più belle, dei cinque dischi forse di rock italiano anche che preferisco, dopo ce ne saranno altri. Allora, senza dirvi niente, io così, come per dispetto, la faccio partire.

Meravigliosa stereofonia contraddistingue questi momenti di viaggio sonoro. Ovviamente Easy Rider è qui per questo e io sono qui per questo. Amagamma rientra tra i miei ascolti preferiti di tutti i tempi, per cui non vedo perché non condividere con voi anche l'ascolto di questa Grantchester Meadows, ovviamente brano di Roger Waters. Ricordiamo che questo doppio album dei Pink Floyd, il quarto della loro discografia, datato 1969, pubblicato immediatamente dopo la colonna sonora del film More, prevede due, ovviamente essendo un doppio, due momenti: un live dell'intera formazione e un secondo volume in cui i quattro elementi dei Pink Floyd si tramutano in solisti e producono quello che gli pare piace. Tra questi gioielli emerge questa Grantchester Meadows di Roger Waters, che è un episodio, devo dire, che a livello notturno si fa decisamente più apprezzare che a livello diurno. Allora, fare l'appello questa sera mi è letteralmente impossibile. Siamo quasi nell'ordine già delle centinaia di messaggi solo nella prima, diciamo, nei primi 40 minuti di programma. Vi state suddividendo sapientemente tra mox@radiorockfm.com come casella di posta elettronica in diretta, tra mox@rockfamily.it alla quale appunto mi state scrivendo già anche in momenti diversi della giornata e che poi io leggerò con calma compatibilmente con il tempo, e ovviamente il 335 1007777, letteralmente preso d'assalto, con tutto il vostro affetto e, perché no, con tutta la vostra comprensione, perché non è detto che tutti i brani che io trasmetto possano esaltarvi in in egual maniera. In realtà c'è chi mi scrive che condivide benissimo con me l'ascolto di alcuni di questi brani, ovviamente, ed è una bella qualità quella dell'eclettismo, tutto sommato. E sapete quanto appunto Easy Rider voglia essere un programma, oltre che vintage, anche eclettico. E allora proseguirei con la musica, voi continuate pure a scrivermi i vostri pareri, io sto leggendo tutto, anche se oggi, ripeto, per questioni di tempo ma anche di coordinazione non riesco a ributtare fuori tutte le parole che mi stanno invadendo qui in studio, invadendo nel termine con l'accezione più positiva che possiate immaginare. Allora, il prossimo pezzo ci porta negli anni 2000 con un gruppo giovane, penso che hanno una decina d'anni meno di me, e la cosa mi fa molto arrabbiare. Ve li faccio ascoltare. Eh sì, di classe si parla anche in questo caso, nonostante l'età, insomma, siamo passati da dei 65 anni, come Pink Floyd, a dei trentenni, diciamo, da poco trentenni, come i News. In ogni caso, la radice è la medesima, l'Inghilterra più, come si dice, quella vena estremamente... Colpatos, ecco, forse anche un po' malinconica, che ha contraddistinto da sempre e ha differenziato la musica europea, la musica prodotta in Europa rispetto a quella prodotta in America. Ovviamente senza fare di tutta l'erba un fascio, perché sarebbe stupido, riduttivo e banale, però diciamo in linea di massima si possono tracciare come coordinate due attitudini fondamentali, quella europea e quella americana, quindi la scrittura in maggiore, più tipica degli stati americani, e la scrittura in minore, più tipica invece degli stati europei. Allora, io non voglio sbagliare con i cursori, nel frattempo arrivano anche, oltre ovviamente ai messaggi di auguri, anche i vari commenti ai brani, anche delle specificazioni di date relativamente a Matthew Bellamy, che è del 78, lo so che è del 78, ho letto 10 anni di meno proprio per differenziare, loro sono nati alla fine degli anni 70, io alla fine degli anni 60, quindi era un modo un po' generico di prendere la cosa, e in ogni caso è un fatto anche questa cosa. Allora, ragazzi e ragazze all'ascolto, numerosissimi che continuano a scrivere al 335 100 77 77 77, sembro ubriaco ma in realtà non lo sono, ho bevuto solo acqua minerale, quindi non preoccupatevi, sono solo emozionato, non solo da voi ma anche dalla musica, perché il filo conduttore, si potrebbe dire, di oggi è che oggi metto la musica che mi piace, come se nelle altre puntate questa cosa non avvenisse già abbastanza. In realtà avviene al 95% di quella che è la programmazione di Easy Rider, e la puntata di oggi è un po' un best of. Io ci tengo molto anche al prossimo pezzo, è un pezzo importante, un pezzo ritratto dal vivo nel 1975 per una delle formazioni europee migliori degli anni 70 sicuramente, uno dei più grandi cantanti della storia, uno dei più grandi sperimentatori e ricercatori di vocalità del mondo, purtroppo scomparso nel 1979. Avrete sicuramente capito di chi sto parlando, vi dico che il pezzo ha un testo in greco, cantato appunto da un madrelingua greca, si intitola Cometa Rossa, non ho bisogno di specificare altro. guardio. Adore come Beh, direi che applausi più meritati di questi, insomma, non possiamo sperare di averne, ovviamente. Area, Demetrio Stratos, 1975, da quella gemma di album live che si intitolava, anzi si intitola Areazione, uno dei più grandi live della storia del rock italiano. Pensate che per la strumentazione a disposizione all'epoca era veramente perfetto. Spesso ho elogiato la qualità sonora, sempre e comunque, dei dischi di questa etichetta che si chiama Cramps. Effettivamente non c'è nulla da dire, anche nelle nuove vesti, quelle digitali, il suono si è valorizzato, ma già quello analogico presente sui vinili venduti proprio negli anni 70, dal 73 all'80, i suoni dei dischi della Cramps erano veramente perfetti, nulla da invidiare allo stato attuale delle cose. Moltissimi ancora i messaggi che continuo a ricevere con immensa gioia. Mi sembra di avere tanti amici, questa è un po' la sensazione, che è anche difficile da esprimere, perché magari non tutte le facce delle persone che mi stanno scrivendo le conosco, anzi sicuramente è così, ne conosco una minoranza. C'è anche chi mi ha telefonato direttamente qui in radio per salutarmi direttamente. Ripeto, per me è uno dei compleanni veramente più azzeccati, più belli, più gioiosi della mia vita. Siamo in compagnia di ottima musica, stiamo un po' saltellando intorno a quelli che sono i gusti che rappresentano un po' la quotidianità, l'alternanza delle sensazioni che abbiamo durante la nostra quotidianità, e quindi passiamo da un classico degli Area a qualcosa di recente, di assolutamente misconosciuto, ma sicuramente che non vi lascerà indifferenti. Si tratta di una band, voglio sottolineare, cristiana, quindi una di quelle band americane, di quelle numerose band americane che in qualche modo con lo sviluppo di una certa tematica nei testi, insomma, ha protratto questo credo. Il suono col quale si esprime è abbastanza duro, oserei dire. Si chiamano Zao, hanno fatto parecchi album, io ne prendo in mano uno dei loro più significativi degli anni 90, siamo nel 98, esatto. Il titolo è Where Blood and Fire Bring Rest. Traduzione veloce, dove il sangue e il fuoco portano il riposo. Riferimenti biblici in tutti i loro testi e nei loro titoli, infatti la canzone di apertura di questo album degli Zao si intitola Lies of Serpents, A River of Tears, e anche qua mi piace tradurre perché oggi è così. Bugie di serpenti, un fiume di lacrime. Questa è una metafora biblica che gli Zao, con il loro suono assolutamente vetriolitico, ci inoltrano. Si chiamano Zao, sono americani, abbiamo anche avuto occasione di vederli dal vivo in uno storico locale nell'area milanese, ossia il Bloom di Mezzago, qualche anno fa. Ripeto, hanno fatto diversi album, oggi li abbiamo ritrovati con questa bella Lies of Serpents, A River of Tears, da un album, insomma, della loro discografia, uno dei più significativi. Zao rappresentano anche loro per me un momento necessario, di ascolto, al pari, insomma, di moltissimi altri gruppi. Stasera stiamo un po' ascoltando alcune delle mie preferenze, dico alcune perché in sole due ore cioè ci saranno delle omissioni veramente pazzesche. Vi faccio un esempio: rileggendo la scaletta buttata giù ieri sera, anzi ieri notte, di mio pugno, proprio nel mio archivio, ho notato che, ma caspita, non ci sono i Genesis. Cioè, quindi potremmo fare che domani proseguiamo con le mie preferenze, e così ci inventiamo una trasmissione che si chiama Easy Rider, e ogni giorno vi beccate tutto ciò che mi pare e piace, sperando che possa essere condiviso nei gusti anche da voi, e questa cosa fortunatamente accade, almeno a giudicare dal numero di messaggi che continuano ad arrivare al 335 100 7777. Vi sto comunque esortando a scrivere, lo dico anche per chi si fosse sintonizzato da poco, promettendovi una cosa che faccio comunque quotidianamente, i miei colleghi lo sanno, io leggo assolutamente tutti i vostri messaggi, per motivi oggi di dare spazio alla musica, quindi non mi permetto in diretta di leggere tutti i vostri messaggi, i vostri nomi, le vostre parole, perché altrimenti ascolteremo veramente molta meno musica di quella che oggi ho voglia di condividere con voi. Allora, abbiamo parlato di misticismo bene o male con gli Zao, e continuiamo a farlo con un suono radicalmente diverso, è caso di dirlo, visto che andiamo in Australia con un altro dei miei dischi preferiti in assoluto. Questo è veramente nella top 5 di tutti i tempi. Si intitola Within the Realm of a Dying Sun. Loro sono australiani, sono un duo che ovviamente si avvale di ottimi musicisti che li accompagnano. Il loro terzo album è questo qua, esce nel 1987, uno degli album più intensi della storia della musica non rock, perché di rock hanno veramente poco, se non una grande attitudine ovviamente che li fa amare ed apprezzare da moltissimi ascoltatori di musica rock in generale. E ho scelto un brano che, in realtà, vi confesso, l'ho scelto per motivi di durata, è uno dei brani forse più brevi, non è il più bello, trovare il più bel brano in questo disco è abbastanza difficile, anche se io una mia idea ce l'avrei, quello veramente strepitoso è troppo lungo, e allora vi faccio ascoltare questa Summoning of the Muse, e torna la parola Muse, non vi ho detto ancora il nome, si chiamano Dead Can Dance. sfumano anche i Dead Can Dance, con un momento sicuramente catartico, un momento che ci riporta al dovuto misticismo, visto che con gli Zao questa atmosfera era stata radicalmente divelta, anche se appunto mi è piaciuto specificare subito in apertura quanto gli Zao fosse un gruppo di fedeli, di devoti, insomma di ragazzi con la testa a posto. E mi piace sempre sottolineare quanto al di là dei linguaggi espressivi ci sia una radice, una matrice comune dalla quale si parte per esprimere nel bene o nel male i propri pensieri, e in questo caso è ovvio dirlo, pensieri assolutamente positivi. Molto positivi ovviamente i pensieri che voi continuate a inoltrarmi, ma tra gli altri ci sono anche delle gli unici messaggi ai quali posso dare velocissimamente spazio sono quelli in cui mi vengono fatte delle domande, come quella dell'amico Renato di Genova che mi chiede lumi relativamente a Gordon Sharp, ascoltato ieri sera. Cindy Talk è il nome del progetto di Gordon Sharp, ti ripeto, è un progetto a cavallo tra gli anni 80 e 90, quindi se devi cercare i loro dischi, come mi chiedi, cerca Cindy Talk. Ne hanno fatti pochi e sono tutti estremamente notturni. L'altro amico invece mi chiede lumi sul disco degli Area. Io l'ho detto prima, lo ripeto volentieri, Areazione è il titolo del loro album dal vivo del 1975, nel quale trovi veramente un momento bellissimo della loro produzione, come è stato appunto questo ottimo esempio, Cometa Rossa, cantata in greco dal vecchio amico Demetrio Stratos. Io voglio continuare con la musica come promesso, e ancora un salto radicale, un cambio radicale di sonorità, dalla musica molto poco rock dei Dead Can Dance passiamo a una musica di una violenza inaudita. Questo è il primordiale hardcore di una band di Boston che si chiama Gang Green, esattamente come Banda Verde. Era un trio allucinato che deteneva probabilmente il primato nel momento in cui suonava di essere la band più veloce al mondo. Allora io ho scelto il pezzo più lungo e il pezzo più elaborato, più suonato, un brano con il quale noi giovani batteristi hardcore ci misuravamo e quindi provavamo a risuonarlo con risultati alterni, però vi garantisco che è un pezzo straordinario. Gang Green, voglio ringraziare per questo anche amico Mauri, un ascoltatore come voi che mi ha fatto tornare in possesso di questa canzone. Spero che sia all'ascolto e che se la goda esattamente come tutti voi. 1984, quindi erano già in attività da almeno 3 anni, e il titolo della canzone è Sold Out, esattamente come quando andate ai concerti e vi dicono non ci sono più biglietti, è tutto esaurito. Per l'appunto è tutto sold out. sfumata fino all'ultimo, Gangrene sold out, 2 minuti di cieca follia, perché dire pura violenza, insomma, mi sembra un po' troppo banale. E allora questo era l'hardcore più verace, quello americano, quello più fulmineo e più sanguigno, ecco, questi sono gli aggettivi più ovvi che ci vengono in mente. Allora, ovviamente adesso, come avrete capito, il linguaggio si evolve o si involve, insomma, cambia nuovamente in maniera radicale. Il punto di partenza, il punto di arrivo anche di questa trasmissione è quella di trasmettere le sensazioni più disparate, ma che comunque ci hanno provocato sicuramente qualcosa, ci hanno lasciato un segno. Parlo col plurale maestatis, in realtà sto parlando di me nella maniera più assoluta, non ho la più pallida idea se anche per voi questa cosa è condivisibile, insomma, al 100%, secondo me a fasi alterne sì. Il prossimo brano è un altro brano estratto da uno dei miei album favoriti di sempre, quindi si scomoda un altro grandissimo nome del progressive inglese, Robert Fripp, uno dei più eclettici maestri di chitarra e di composizione, quindi si parla di King Crimson. 1970 esce anche il loro terzo album, che si intitola Lizard. C'è un cambio di cantante, perché nei primi due album c'era Greg Lake che prestava la sua vocalità a questa grande band, ma come tutti sappiamo dal 70 in poi raggiunge il trio Emerson, Lake e Palmer, e quindi Lizard è il primo album con Gordon Haskell. Si apre con questa Circus che adesso vi faccio sentire. Ovviamente il suono è jazz progressivo, ma di rara intensità. King Crimson. Night, a sable dome scattered with diamonds, fuse my dust from a nightmare. Squeeze me to her breast, sew me with carbon, strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, close me in questions, built the sky for my dawn. cages. Strong men lost their empty box, collapsed and lions shot at their teeth. Gloves raised round the ring, stallions stampeded, pandemonium seesaw. Il circo dei King Crimson nel 1970, grande intensità, ovviamente sperimentazione, jazz, progressive, tutto quello che non poteva mancare in un momento di particolare creatività come il 1970, questo anno a cavallo tra due decadi meravigliose entrambe dal punto di vista dell'arte sicuramente, oltre che delle sommosse culturali. Ai noi adesso è tutto un po' ridimensionato da questo, sotto questo profilo, però ed è per questo che ci attacchiamo così tenacemente alla musica che abbiamo vissuto un po' di decadi fa. Comunque non mancano le emozioni, anche se un po' più sporadiche, anche nelle produzioni attuali. Io ripeto, vi esorto a continuare a scrivermi senza remora. Non preoccupatevi se non sentite il vostro nome in diretta. Oggi la linea editoriale di Easy Rider è questa: tanta musica decisa da me, come al solito, però con questa condivisione sentimentale riguardo le varie sfaccettature insomma le varie emozioni che la musica ci possa regalare, quindi artisti che in qualche modo hanno lasciato il segno nella mia vita personale, e tutti i vostri riscontri sono comunque i benvenuti. Continuate a usare mox@radiorockfm.com, usate anche il 335-100-7777 anche per le vostre domande. Il prossimo brano sono certo che farà felici moltissimi di voi, perché è una delle band più amate dall'ascoltatore medio di Rock FM, e c'è sempre un perché. Allora, io non vi annuncio neanche il gruppo, vi dico che siamo nel 98, che esordiscono con il loro album omonimo nel 98. Il pezzo parla di guerra, il cantante è strepitoso,